Beh, guardi, la distinzione patriottismo-nazionalismo è una distinzione che addirittura risale alla seconda metà dell'Ottocento. Il più grande pensatore liberale ungherese, József Eötvös, che è sconosciuto alla cultura europea se non di lingua tedesca, perché scriveva in tedesco, ha fatto una distinzione ben precisa. E tra l'altro difendeva i principi liberali all'interno del Regno d'Ungheria. Però occorrerebbe qui fare una premessa: il Regno d'Ungheria, che nasce addirittura nell'anno 1001 con la donazione della corona reale da parte del Papa Silvestro II a re István, era un paese, l'Ungheria, che aveva tra i punti principali il rispetto degli stranieri. Addirittura nelle istruzioni del re István, Santo Stefano, più conosciuto come Santo Stefano, al figlio Imre, nel sesto punto di queste istruzioni si parla esplicitamente di accoglienza e protezione degli stranieri. E guardi, ed è in questo punto si dice esattamente che l'uso di una sola consuetudine, di una sola lingua indeboliscono un paese, mentre l'accoglienza e l'inserimento degli stranieri ne costituiscono la ricchezza. Ora, se non si capisce, e secondo me molti osservatori e anche i giornalisti, mi scusi, spesso non conoscono la storia ungherese, che l'Ungheria è stata per mille anni uno stato multietnico, come lo sono stati diversi stati europei e non solo europei. Quindi questo è un punto di partenza importante. Dov'è che avviene lo spartiacque tra patriottismo e nazionalismo? È proprio nella seconda metà dell'Ottocento che, come molti sanno, vede nascere i nazionalismi delle singole nazioni. Se si fosse seguito l'insegnamento del liberale Eötvös, probabilmente non si sarebbe arrivati in Ungheria a confondere i due termini. Perché l'Ungheria, ripeto, era un paese, anche all'epoca della monarchia austro-ungarica, soprattutto nella prima fase, con una legislazione molto liberale. Ci sono delle normative che neppure noi in Italia ci sogniamo, le dico una per tutte: la legge sul divorzio in Ungheria entra alla fine dell'Ottocento, come le sanno in Italia soltanto nel 1974, questo è solo un punto. Insomma, allora, un paese moderno, che tanto per mettere alcuni punti fermi bisogna, come dire, spostare da una certa immagine quasi richiusa su se stessa che oggi in qualche modo l'attualità porta avanti. Dunque, c'è anche questo aspetto, e qui per forza dobbiamo parlare anche del Trianon. Il Trianon ha costituito per l'ungherese medio un trauma che si è tramandato di generazione in generazione e coinvolge la popolazione ungherese, direi, di qualsiasi sentimento politico. È difficile immaginare un ungherese che non senta ancora sulla propria pelle quella tragedia per il paese. Professore, mi scusi, Trianon per un ungherese oggi vuol dire non tanto il palazzo, ma il trattato che nel 1920, quindi al termine del primo conflitto mondiale, di fatto smembra la Grande Ungheria. Sembra la Grande Ungheria, ma fin qui non ci sarebbe stato nulla di male, nel senso che con la caduta dei grandi imperi, dell'impero austro-ungarico, era inevitabile che, avendo perduto la guerra, questo paese, questo Stato, questo impero venisse disintegrato. Ma paradossalmente, mentre l'Austria ha mantenuto la sua integrità per quanto riguarda l'etnia tedesca, oggi se lei va in Austria lei ha una popolazione al 99% tedesca, quindi austriaca, mentre l'Ungheria si è trovata, proprio per la distribuzione a macchia di leopardo della popolazione magiara, a perdere al momento del trattato gran parte della sua popolazione, dei suoi legami storico, culturali e anche economici. Si sono scritti fiumi di testi su questo problema. Lei pensi che non esiste un fiume, come diceva il poeta Petrofi, oggi non esiste un fiume che nasca e muoia in Ungheria. Cioè, da un punto di vista della composizione geopolitica, l'Ungheria era una unità facilmente individuabile, anche diciamo con le cartine aggiornate di oggi, nel bacino danubiano carpatico. Il Trianon ha significato spezzare questa unità storica che era millenaria, un po' come se la Germania o la Francia fossero stati privati, o la stessa Italia, dei due terzi del territorio. Professore, una domanda precisa, professor Rospanti. Il trauma del Trianon del Trianon, come direbbero i francesi, è un trauma, diciamo, per intellettuali, per studiosi, o invece si è radicato nella cultura popolare ungherese di oggi? Ma guardi, alcuni fenomeni sono sicuramente da condannare e da criticare. Se ci riferiamo a certi gruppi estremistici che usano il Trianon come paravento per esplicare le loro idee estremistiche, antisemite, xenofobe, anti, se vogliamo, anti-rom, chiaramente queste manifestazioni sono da condannare e sono l'espressione di una minoranza assoluta. Se invece parliamo di un sentimento generale che è vissuto nel subconscio del popolo ungherese, beh, questo è molto diffuso anche nella popolazione che, diciamo, può essere definita, non userei termini destra-sinistra, ma semplicemente progressista. Io conosco parecchie persone che sono sicuramente appartenenti a quest'area, che comunque rivendicano, diciamo, l'ingiustizia di questo fatto.